RadioTube Social Network. Ed eccoci insieme con la seconda ora del nostro RadioTube. Ah, che bel co-conduttore che ho qua davanti a me. Non ho capito però se ha deciso di fare da grande lo youtuber, l'autore di podcast, perché sentiamo questo video. Benvenuti al Super Serial Minds Live Show from Sesto San Giovanni. Yes. Abbiamo scelto un titolo breve perché ci hanno detto che è importante essere concisi sul web per le ricerche, quindi qua siamo. Cos'è, Diego, questa bellissima idea che ci è venuta? Questa bellissima iniziativa. Abbiamo pensato che nessuno aveva mai fatto dei video, sì. Allora noi la speranza, abbiamo comprato un microfono professionale da 12,5 euro, anche un cavalletto, vedete che è strutturato così, sembra accrocchiato, in realtà lo vendono così proprio per far sembrare. Vabbè, che vabbè, allora c'è scappato, sì, il nome, sì, di battesimo, sì. Diego Castelli, ciao. Che in questo video con Marco Villa, che è un altro amico di RadioTube, ha fondato Serial Minds. Adesso cosa fate? Youtuber? Adesso facciamo anche questo. A parte, sono commosso a manetta per il fatto che questa roba è andata su Radio 24 improvvisamente, questa vetrina devastante. No, erano 10 anni che scrivevamo e basta. Abbiamo detto ormai qua, se non possiamo aspettare di passare i 40, detto, facciamo i video. E ah, poi è vero, vediamo. Che ne avete ancora? Cioè, siamo ancora pre, non ho più i capelli. Ma mamma mia, veramente, che vergogna, che vergogna. Allora, Diego Castelli, fondatore di Serial Minds, ma anche ovviamente bisogna anche onorare l'azienda che gli paga lo stipendio, gli paga il mutuo, insomma, se ne parla le bollette, è il channel manager di Iris, sì, di 20 e adesso, sì, anche di Cine34. Cos'è, sì, Cine34? Cine34 è il nuovo canale che, indovina, sta al 34 del digitale terrestre. Vabbè, così uno non si sbaglia. Non si sbaglia, e è un canale completamente dedicato al cinema italiano. Quindi 24 ore di film italiani, in questo momento tendenzialmente un pochino vintage, diciamo così. Abbiamo cominciato ormai 2 settimane fa con una giornata dedicata a Fellini, di cui parlavate, certo, poco, ovviamente, prima, perché era il suo anniversario. E basta, quindi sono 24 ore di cinema italiano col quale cerchiamo un po' di ottimizzare anche la library di Mediaset che già avevamo, certo, usando dei film in prima serata che non andavano magari da tanto tempo, ma ti dico anche banalmente Franco e Ciccio, no? Che in prima serata non si vedono più, noi li rimettiamo. Ma io li rivedo volentieri, esatto, Franco e Ciccio. E in più col tentativo anche di recuperare magari chicche vecchissime o che non si sono mai viste, che hai detto una cosa importante. Qui e là, restauriamo, facciamo, insomma, ci divertiamo. Hai un detto po'. Una cosa importante perché ormai abbiamo 18.000 device, tantissimi canali, la possibilità di... Però è difficile, se uno vuole vedersi un bel vecchio film, sono più difficili da trovare. Esatto, perché secondo me è vero che c'è una parte del pubblico che comincia a spostarsi ormai su queste piattaforme dove puoi vedere quello che vuoi, quando vuoi. Però il sano zapping ancora esiste, ed esiste soprattutto per una tipologia di pubblico che magari non è particolarmente avvezza a nuove tecnologie. Però anche le piattaforme stanno tanto sul nuovo. Sì, sì, sì, infatti è difficile che vadano a recuperare cose molto vecchie. Peraltro io devo anche dirti la verità, abbiamo visto i profili dopo i primi giorni del canale e ci aspettavamo serenamente un pubblico magari un po' maturo. Abbiamo trovato dei picchi stranissimi sui 15-24 anni che francamente, cioè, ci hanno fatto molto piacere. Dall'altra parte mi ha detto, ma perché voi siete qui a vedere? Sono curiosa, voglio sapere qual è il film che è andato meglio. Vabbè, sarà in prima serata. Dai, in realtà per ora è stato ancora Marcord la prima sera che ha fatto, ha fatto un pochino più degli altri, però devo dire che ci siamo già stabilizzati abbastanza, cioè sono proprio arrivati, il canale è nato, devo dire che noi siamo facilitati rispetto alla partenza di un canale magari di di un altro distributore, perché il fatto di poterlo comunque promuovere sugli altri canali di Mediaset, che c'è, tra l'altro abbiamo un promo molto bello in onda, se mi permetto di dire questa cosa, e quindi sicuramente c'è stato un po' di curiosi che sono arrivati subito, però una volta arrivati poi sono stati lì, e in questi giorni, cioè, abbiamo mandato in onda da Deserto Rosso a Profondo Rosso a che ne so, cioè, a Che Ombre Rosse, no, ancora no, no, perché no, però si vuole, non è italiano. Emiliano, ombre rosse. No, perché non mi veniva niente con rosso. No, sì, in effetti devo pensarci. Bianco, rosso e verdone. Bianco, rosso e verdone magari arriva. E quindi poi variamo ovviamente su tanti generi, dal western alla commedia, appunto al film più d'autore. Però insomma abbiamo visto che c'è stata una bella risposta e siamo contenti. Vabbè, vedo che stasera c'è una pistola per Ringo. Per Ringo. Allora dai, andiamo un po' a vedere quali sono i video della settimana. Ti ho fatto chiacchierare un po', ma è molto curiosa questa cosa di fare un canale nuovo con il recupero del grande cinema. Sono molto molto molto contenta. Poi ti farò un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Allora, la capacità di creare l'attesa di un video in rete. Alessandro Cattelan ha postato una foto davanti al Teatro Ariston di Sanremo e tutti che cosa succederà? Lo svelo domattina alle 9 e poi ha rilasciato il video. Allora ragazzi, ho una notizia molto importante che mi riguarda, che vi devo comunicare, probabilmente ne avete sentito parlare, sono girate un po' di voci in questi mesi, ma adesso è ufficiale, il 24 marzo ricomincia EPCC, non vediamo l'ora, vi aspettiamo tutti, 24 marzo EPCC. Ma siamo venuti là adesso perché... È un problema? No. E cosa... Vabbè, Sanremo, perché adesso uno il promo non può farlo dove vuole, l'aria è di tutti, eh. L'aria è di tutti, quindi sì, ho fatto il promo davanti all'Ariston di Sanremo. Certo, quello è solo carino, pubblico, carino, è molto carino. Molto sì, carino. Questo dovevi avere qua il Villa, il mio socio che lavora con esatto, spalla di Cattelan. Esatto, la spalla di Cattelan, no, però salutiamo. Sì, loro si inventano sempre queste cose. Questa cosa, come carina la chiamiamo? Guerriglia marketing, non so come, sì, come vogliamo chiamare. Sì, però mi piace, è stato un bel uso della rete, cioè fare, anche perché poi tutti l'avranno inserito negli ospiti di Sanremo, esatto, il testimone, il passaggio del testimone. Mi è piaciuto perché non è stata una cosa irrispettosa, cioè non è che è andato lì a fare quello che fa un'altra cosa e dice io sono meglio di questo, no? Si è un po' di attaccato, tutti. Dice va bene, parlate di io, sono qui, sappiate che ho trovato una cosa divertente. Allora, però questa settimana è successa anche una cosa che ci ha sconvolto, che a me ha colpito moltissimo. E non sono una fan di basket, però lui era un personaggio, ad esempio, che a me incuriosiva e divertiva molto per il suo desiderio di parlare italiano, di recuperare e di conservare le sue memorie italiane della sua infanzia. Ovviamente stiamo parlando di Kobe Bryant, leggenda del basket, certo, che è scomparso in un incidente di elicottero qualche sera fa. C'è stato un omaggio questa notte, io mi sono svegliata questa mattina e i social network erano pieni di video come questo. I look at this as a celebration tonight. Tonight we celebrate the kid that came here at 18 years of age, retired at 38 and became probably the best dad that we've seen over the last 3 years, man. So in the words of Kobe Bryant, Mamba out, but in the words of us, not forgotten. Live on, brother. Allora, non lo dimenticheremo, vivrai per sempre, ha detto LeBron James. C'è stato un omaggio dei Lakers prima, durante e dopo la partita contro Portland. Allora, ne abbiamo parlato tante volte di come il lutto si condivide in rete. È proprio un'onda veramente di grande emotività. Sì. Io ogni tanto devo ammettere che quando vedo singoli messaggi magari di una persona che condivide magari anche un lutto personale, puoi rimanere un po' stranito, no, dal fatto che qualcuno voglia condividere una cosa in rete. Allo stesso tempo ti rendi conto che ci sono effettivamente dei momenti in cui si vuole far parte di una comunità, non so come dire. In questo caso qui tu dici non sei un'appassionata di basket, neanch'io. Allo stesso tempo Kobe Bryant era probabilmente uno di quelli, alla Michael Jordan, alla Shaquille O'Neal, che diventano personaggi che vanno oltre, no? Che superano il confine dello sport di per sé. E quindi che senti un po' vicini in qualche modo. Poi lui, come hai ricordato, aveva vissuto in Italia, aveva una passione per l'Italia e quindi effettivamente creano questo senso di comunità che va molto oltre la singola persona, le cose che faceva, che non è che noi ci ricordiamo magari molti italiani, ma neanche dove giocava nelle ultime partite, non è quello, è proprio il senso di dare un ordine a un mondo che, quando scompare una persona di questo tipo qua a 41 anni in un incidente di elicottero, ti sembra che ti manca il treno sotto i piedi. Allora, devo ringraziare l'ascoltatore che ha segnalato al 349-238-6666 una manifestazione nazionale spontanea nei campetti di basket italiani chiamata One Last Shot, quindi hashtag One Last Shot, cercatelo nei social, in memoria appunto della morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gigi, che è stata una cosa davvero straziante, anche per non appassionati, ma certo anche per non appassionati per una volta il basket ci ha unito. Giuro che però non mi vedrete su un campetto, perché per me è proprio fisicamente impossibile, però seguite l'hashtag One Last Shot sui social, perché ci saranno oltre 100 campetti in tutta Italia e poi foto e video verranno postati, insomma verranno riuniti in omaggio. Bello, bello, bello questo omaggio degli appassionati di basket italiani. Allora, 17:16 minuti, con un minuto di ritardo ai noi, diamo la linea alla viabilità e poi saremo ancora insieme. Radio Tube Social Network. E siamo ancora insieme con Radio Tube Social Network e il nostro co-conduttore d'eccezione, il nostro Diego Castelli, che è channel manager di Iris, di 20, ma anche di Cine34, che è questo canale che recupera il grande cinema italiano, anche quello che magari non si vede più, anche film un po' vecchi. Devo farti una domanda. Sì. Allora, la prima volta che, adesso non mi ricordo quale dei miei nipoti, ha visto un film in bianco e nero in TV, sì, ha detto: ma si è rotto il televisore, era molto piccolo, era okay, molto piccolo. Però in effetti noi siamo sempre stati abituati a vedere in TV anche i film in bianco e nero, sì, cosa sì, che adesso non succede praticamente più, perché è difficilissimo vedere un film in bianco e nero. Sì. Voi trasmettete o trasmetterete anche film in bianco e nero? Sì, sì, sì, sì, sicuramente. Guarda, in realtà già lo facevamo un po' con Iris, che per dire a Capodanno quest'anno abbiamo messo Casablanca, tanto per dirne uno. Sicuramente lo faremo, proprio perché Cine34 è un ulteriore spazio per recuperare anche cose un po' più vecchie, o comunque che abbiano quella patina lì. È chiaro che il bianco e nero, per dircela molto pragmatica, il bianco e nero un pochino ormai respinge, cioè ecco, è un fatto. Lo spettatore che fa zapping fa più fatica. E di questo bisogna essere consci e sereni, non succede niente, voglio dire. Per cui il sorpasso sì, perché è un film che ha ancora tutta una sua aura di importanza, o lo stesso Ombre Rosse di cui si parlava prima, ma magari altri in prima serata diventa più difficile, perché abbiamo anche noi i nostri obiettivi. Però sicuramente sul 34 possiamo permetterci qualcosa. Bello, in più. Mi piace moltissimo. Allora, prima di parlare di un argomento di scottante attualità, vorrei però recuperare un altro dei video della settimana che non abbiamo ancora mandato in onda. Piazza Pulita, c'era ospite il professor Paolo Becchi. Corrado Formigli gli ha fatto una domanda sul caso della citofonata di Matteo Salvini a Bologna ed è successo questo. Sulla questione di Yassin e del citofono, qual è la sua opinione, professor Becchi? Ma ne avete già parlato tanto e mi sono già tanto annoiato che mi sembra il caso di non aggiungere. Mi dispiace tanto che si sia annoiato, però se si è annoiato tanto può fare qualcosa di più divertente la sera, eh? Mi ha invitato, ho capito, però credo, uno se si annoia si alza, se ne vado, ma mi hai invitato tu per parlare del mio libro, ma me ne vado subito, tranquillo, ciao. No, sono venuto a parlare di Salvini, caro citofonaglio. Me ne vado subito, tranquillo. Ma secondo me sta a casa sua, dove? Se ne vado a casa sua. Becchi, professor Becchi, dove è andato? È andato via da casa sua. Però questa è l'andata via più veloce che mi sia mai capitata nella storia da conduttore. Di solito ci vuole almeno un quarto d'ora. Però diciamo, devo dire che è andato via da casa sua, è bellissima. No, io me lo vedo nell'altra stanza con le braccia incrociate. Che per protesta si mette dietro la telecamera. È una cosa un po' matrimoniale, se vuoi, no? E io vado di là. E io vado via. Ma è a casa sua, professore. No, è carina la scena, è molto molto molto carina la scena. Allora, questa settimana io sono molto contenta di parlarne perché è una persona a cui voglio molto bene. Lui è stato ospite ieri mattina di Alessandro Milan, Filippo Sensi, deputato, persona di grande onestà e nel passato anche persona di grandi dimensioni. Insomma, è sempre stato un pochino sovrappeso. Ci siamo sempre molto presi in giro su questa cosa. E l'altro giorno ha fatto questo discorso. Abbiamo provato a concentrarci su un fenomeno odioso, quello del body shaming, in particolare del fat shaming, dello stigma riservato all'obesità come diversità intollerabile, ridicola, degna soltanto di disprezzo e derisione. Siamo soliti ricondurre questa fattispecie di cui molto si parla, e vorrei ringraziare Costanza Rizzacasa d'Orsogna per il lavoro pionieristico che svolge, il suo impegno contro il fat shaming, in relazione all'ambiente relazionale, chiedo scusa per il bisticcio, dei social network, nell'ambito del bullismo, del fenomeno cioè sul quale siamo chiamati in quest'aula a normare. Vi chiedo, colleghi, e lo dico da persona obesa, di considerare con attenzione queste specificità, poiché riguardano la questione del corpo, delle sue forme, della rappresentazione e della identità che il corpo alla lettera definisce. Questo è l'inizio del suo discorso alla Camera, ma poi Filippo Sensi ha parlato anche della sua esperienza. Sono stato per tutta la vita, e sono, cito, un cicciabomba, cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Qualcuno mi chiamava Manzo, mio padre ci sformava. Un ragazzino una volta mi gridò: Sensi, mi fai senso? Lo ricordo come fosse adesso. Chiunque mi conosca, presidente, e mi scuso per il fatto personale, sa che sul mio peso scherzo, lo esorcizzo, ci sorrido, ma mi ci misuro ogni giorno, non come un'ossessione, ma come la mia dimensione, il mio spazio. E sento questo sguardo che pesa, che mi pesa, già, mi pesa. Non tutti però ce la fanno, non tutti ci riescono, e facciamo finta che sia un passo avanti scherzarci su. Ma quando sei ragazzo, magari quando sei ragazza, è più difficile, lasciatevelo dire, è maledettamente più difficile. Beh, un discorso pazzesco, tosto, ha fatto ovviamente tosto. Il giro della rete in pochi minuti, un discorso tostissimo, sì, Diego. Ma poi così personale, così proprio senza filtri, non so come dire, che restituisce un'esperienza difficile che magari alle volte cerchiamo di eliminare, no? Cioè cerchiamo di fare finta che sono sciocchezze, sono ragazzi, sono invece il bullismo sono cose serie. E secondo me è bello perché, come dire, rompe una specie di equilibrio che di solito teniamo tra il fatto che l'obesità, il sovrappeso è un problema della civiltà occidentale soprattutto, diciamo, e spesso per combatterlo passiamo a quella che adesso viene chiamata la body positivity, no? Il fatto di consigliare, insomma, supportare le persone a vedersi sempre bene nel loro corpo, che è una cosa molto bella, allo stesso tempo può portare anche a degli eccessi quando ci si dimentica che l'obesità è un problema. Ma il fatto è che l'obesità non si può, come dire, non serve trattarla solo come insulto, com'è? Si può essere vicini a delle persone che vogliono intraprendere determinati percorsi o che non vogliono intraprenderle e che sono persone normalissime. Persone, cioè, normalissime, come noi, ed è una cosa che. Cioè, inizia... come noi, perché voglio dire, perché questo problema non l'ho mai avuto, avuti magari altri. Però il fatto che una persona così, che in Parlamento si alzi e offra, diciamo, un'esperienza personale così forte, cioè squarcia un bel velo, secondo me. Sì, ha squarciato davvero un velo pazzesco. Hai parlato di bullismo. Allora, queste cose ci sono sempre state, perché a scuola quello che aveva gli occhiali veniva preso in giro, quello che aveva l'apparecchio veniva preso in giro, però adesso la frontiera passa anche sui social, e vorrei parlarne con Matteo Grandi, che tra l'altro è autore di Far Web, Odio, Bufale, Bullismo, il lato oscuro dei social. Matteo, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, il fatto che sempre di più questi termini americani rientrino nel nostro linguaggio, fat shaming, cioè bullizzare una persona per il suo peso, per il grasso, body shaming, bullizzare, penso che si possa dire bullizzare, insomma, in questo caso tradurlo così, una persona per il proprio corpo, sì, è una cosa che si è sempre fatta, però la rete che effetto ha su questo? La rete ha un effetto devastante su questo, perché, come dicevi giustamente tu, come stavate dicendo e osservando prima, il bullismo è sempre esistito. Il bullismo scolastico in maniera particolare è un qualcosa forse quasi di ancestrale, no? Il ragazzino, per affermare la sua personalità, deride e prende in giro il ragazzino più debole, e ovviamente la prima cosa a cui si attacca è un difetto fisico generalmente. Questa cosa è triste, è spiacevole, però rientra per certi versi dentro a delle dinamiche legate a un'età, a un mondo circoscritto, va combattuta, però in qualche modo l'abbiamo sempre messa a fuoco, l'abbiamo identificata e sapevamo che aveva un suo posto, un suo spazio. La cosa diventa invece estremamente inquietante quando, grazie alla rete, trova un mezzo di propagazione estremamente forte, estremamente violento. C'è questo termine che secondo me dice tutto, che è l'amplificazione. Il web permette a questo tipo di approcci, quindi al discorso d'odio, al bullismo, al body shaming, un'amplificazione che potenzialmente è infinita. E quindi non è più il ragazzo che viene bullizzato nella classe, il che è comunque triste e grave, ma è la persona che viene bullizzata potenzialmente sotto gli occhi di una platea infinita. C'è anche il problema del fatto che spesso questa platea infinita è una platea che è sconosciuta agli adulti. Completamente, completamente sconosciuta. E quindi questo non fa che aumentare i rischi insiti dietro a questo approccio. Fra l'altro, che cosa succede? Succede che non è soltanto la platea a essere sconosciuta, ma le conseguenze di certi comportamenti a essere, secondo me, totalmente ignorati dall'adulto. Perché io credo che, nonostante si continui a parlare, come diceva prima, anche, no, di importare questi termini anglofoni nel nostro linguaggio quotidiano, si parli dell'uso corretto o meno corretto dei social, alla fine io trovo che ci ritroviamo ancora oggi di fronte a una platea attiva, perché poi la platea dei social non è mai una platea passiva, è una platea attiva, che per lo più comprende tantissimi analfabeti funzionali o analfabeti digitali, persone che non hanno la minima cognizione del peso che certe sparate hanno sui social network, perché non hanno proprio la cognizione di quel luogo. Credo che da questo punto di vista c'è un'associazione che voi conoscete benissimo, che si chiama Parole Ostili, che nel suo manifesto lanciato qualche anno fa ha lanciato una frase in particolare che secondo me dovrebbe essere un mantra da mandare a memoria, che è: virtuale è reale. Allora, la cosa che oggi manca dal mio punto di vista nell'approccio di moltissime persone alla rete è proprio questo, è l'idea, la sensazione che tanto lo scrivo su internet, cosa vuoi che sia. Ecco, invece ecco. No. E invece no, virtuale è reale, perché tutto quello che noi scriviamo su internet ha delle conseguenze nel mondo reale. Il mondo virtuale non esiste, il mondo virtuale sono i film quando ti metti la mascherina sugli occhi ed entri dentro Jurassic Park, ma il virtuale non esiste, semmai esiste l'immateriale, ma tutto quello che noi facciamo in rete ha conseguenze reali sulla vita delle persone reali. Perché dietro alle tastiere ci sono le persone vere, e questo è da tenere sempre a mente. Matteo, secondo te tu ti sei... insomma, posto sicuramente il problema di cosa bisogna fare. Si parte dagli adulti, che poi, voglio dire, non è solo un problema che riguarda i bambini, i ragazzi, perché abbiamo visto episodi di fat shaming anche di personaggi pubblici da parte di adulti. Insomma, che cosa, cioè, qual è? Allora, io credo che si sia perso il conto dagli insulti a Michela Murdoch, a tantissimi altri personaggi pubblici che appena dicono una parola che qualcuno non condivide, anziché contestare ed entrare nel merito, si cerca la scorciatoia dell'offesa legata magari all'aspetto fisico sul social network, che è un atteggiamento veramente sgradevole. Io credo che in realtà una soluzione ci sia, ed è una soluzione che passa inevitabilmente da un approccio culturale. Oggi manca totalmente un sistema di educazione digitale, e secondo me questo sistema, che è necessario e che potrebbe veramente cambiare l'approccio delle persone social network, manca per due motivi. Uno, perché non si capisce chi è che dovrebbe insegnare e a quale corpo, alla scuola, alla famiglia, cioè a quale corpo andrebbe in qualche modo delegato l'insegnamento. E due, questo sistema manca perché fondamentalmente è difficile anche capire a chi va insegnato. Perché poi, quando si parla di insegnamento, quando si parla di cultura, inevitabilmente associamo questi due termini a un target di giovani, no? La cultura si impartisce ai giovani. In realtà io credo che la cultura digitale oggi sia necessaria sia ai giovani, ai ragazzi, che comunque forse come nativi digitali già hanno in qualche modo più nelle corde certe dinamiche, ma serve tantissimo agli adulti. Allora, lo chiedo sia a te, Matteo, che sei un autore televisivo, sia a Diego Castelli, che è un channel manager, quindi... avete a che fare ovviamente con la televisione. La televisione può essere, Diego, un modo anche per veicolare messaggi positivi e dunque riuscire anche a in questo momento storico, sì, il meccanismo, sì. Io credo che la televisione, come spesso dici in questi casi, sia uno strumento, no? Cioè tu nella televisione puoi mettere cose eccezionali, l'arte migliore del mondo, e puoi mettere le cose più triviali e brutte e malfatte. Quindi perché no? Quindi perché no? Se pensiamo a rivolgersi a un pubblico molto giovane, forse la televisione, quella perlomeno quella classica, sta diventando un mezzo un pochino sfuggente per loro. Però se, come ci siamo appena detti, ha anche senso fare una educazione o rieducazione di un pubblico più adulto, perché no? Perché le parole di Grandi mi hanno colpito molto, perché mi hanno fatto pensare al fatto che c'è proprio un gap generazionale. Cioè nessun genitore può insegnare a un bambino come si sta sui social, perché non sanno loro come ci certo, si sta. Certo. E nessuno gliel'ha insegnato prima, anche loro ci sguazzano da pochi anni, e quindi ci muoviamo tutti forse in un terreno un po' inesplorato o ancora da esplorare, che ha bisogno effettivamente di essere un po' diretto, essere un po' banalmente capito e compreso. Per evitare di dire sui social cose che una persona non diresti mai dal vivo, senza pensare che l'effetto verrà lo stesso. Matteo, cosa ne pensi? Allora, io sono pienamente d'accordo con Diego, aggiungo un'ulteriore riflessione. La televisione sicuramente oggi ha un suo pubblico di riferimento che non è giovanissimo, no? E quindi se si vuole raggiungere quel tipo di pubblico, ovviamente la televisione rischia di essere un mezzo sufficiente. Però appunto c'è poi tutta un'altra fetta di universo che va educata, e secondo me su quella fetta di universo la televisione potrebbe avere ancora una sua efficacia fortissima. Voi vi ricordate il programma del maestro Manzi, Non è mai troppo tardi? Certo. Quel programma ha contribuito a educare un paese da un certo punto di vista, no? È stato veramente un programma di rottura che ha cambiato un po' anche le regole e la grammatica della televisione. Allora, probabilmente oggi riprendere e replicare quello schema sui temi dell'alfabetizzazione digitale rischierebbe di non avere grandissimi risultati, magari in termini di ascolto, rischierebbe certo. di non rispondere a quei parametri che ormai tutte le televisioni e tutti i canali invece si aspettano da un programma televisivo. Però non dimentichiamo che in Italia esiste anche un'emittente pubblica che ha comunque fra le sue finalità anche una finalità sociale, e allora dico, perché non provarci? Perché magari Mamma Rai stessa, magari Rai Play, che è questa piattaforma che potrebbe unire i due pubblici e su cui si sta anche cercando di investire in maniera importante, non prova a prendere in mano i temi dell'educazione digitale. Cioè io credo che comunque attraverso il mainstream questo debba passare. Sono d'accordo, sì. Sì, deve passare attraverso anche il mainstream, perché insomma è un'operazione di alfabetizzazione che va fatta. Io intanto ricordo questo libro che ha un paio d'anni, Matteo, però è ancora attualissimo. Che è essere vecchietto. Beh, no, però mi sa che non invecchia, Far web, odio, bufale, bullismo, il lato oscuro dei social. Cioè, sarebbe bello che fosse sorpassato, ma non lo è. Matteo, grazie davvero di essere stato con noi, a presto, grazie Matteo Grandi. Grazie a voi. Allora, Diego, una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Vabbè, ti faccio parlare un po' di serie TV. Dai, bene, sì, dopo dai. Parliamo un po' di serie Va TV. Bene, a tra poco. Radio Tube Social Network. Allora, l'ultima mezz'ora del nostro RadioTube Social Network con il nostro co-conduttore d'eccezione Diego Castelli, che è fondatore di Serial Minds. Adesso parliamo di un po' di serie TV, però è anche channel manager di alcuni canali di Mediaset che sono Iris 20 e Cine 34, quindi ben tre canali. E però brava, tu me lo poi, ricordi perché poi tanto. Basta, non dategliene più, perché sennò no, poi mi si consuma Diego. Basta. Allora, pubblicità, cioè la rete ha della pubblicità, la pubblicità sì. può interrompere film. Però sì. mi hai raccontato una cosa che io non sapevo. Sì, dell'unico film su cui in questo momento noi non possiamo mandare la pubblicità. Che non può essere interrotto dalla no, pubblicità? Non può essere interrotto dalla pubblicità, che è Schindler's List. Come mai? Che noi l'abbiamo mandato in onda per il giorno della memoria, certo, il 27 gennaio su Iris. E non si può perché, per farla breve, non vuole Steven Spielberg. Ha una sua ragione. Se va che chiama e dice no ragazzi. No, però ovviamente normalmente per la TV lineare, con la pubblicità ci campiamo, quindi nel senso tutti quelli che producono film, che producono serie TV sanno che ci sarà pubblicità, però su questo film in particolare, ovviamente per una questione delle tematiche che tratta, Steven Spielberg nella distribuire, nel vendere i diritti di distribuzione di messa in onda del film, chiede sempre che non ci sia pubblicità. C'è proprio nel contratto. Sì, c'è proprio nel contratto che ho visto, cioè mi hanno mandato uno screenshot del contratto, c'è proprio scritto in inglese no commercial break. Sai? Devo dire che effettivamente lui dice metteteli negli altri miei film, ma in quello no. Assolutamente sì, in quello no. E ti dico, noi che facciamo questo mestiere qua, adesso non bisogna pensare che noi, cioè la pubblicità sappiamo che chiamiamolo un inconveniente per una persona che guarda un film, che guarda una serie, e ci sta. Però sappiamo anche che serve, però se ogni tanto possiamo non metterla del tutto, tutto sommato, anche per gli ascolti, non ci fa male, no? Capito? Certo, e quindi, certo. Però c'è Publitalia che dice, sì ragazzi, però non esageriamo. Sono delle esigenze che se... Ragazzi, il mio stipendio viene da lì, scusate, ma io ho due gatti da mantenere. È vero, e due non gatti. È che, cioè io li mantengo la pubblicità. Certo, i tuoi due gatti. Allora, voglio farti sentire un pezzettino di un video che è appena stato pubblicato da pochi giorni su YouTube. La protagonista è Geppi Cucciari. La lingua italiana ci rappresenta, ci dipinge. Abbiamo oltre 260.000 parole. Sono tante, ci si confonde, lo so. Però magari che so, vedi la foto di una donna e non sei molto convinto o convinta che quell'abito, nello specifico, le stia molto bene, che le doni. Invece di dirle, ma sai che questo abito non è all'altezza del tuo fascino, vogliamo rivederla insieme, io, tu e magari un esorcista? No, le scrivi cozza, che ti sembra sia un modo sintetico per dire la stessa cosa. Nulla contro le cozze, sono un mollusco versatile, con due gocce di limone e basta, fanno la loro figura. E sui social, se sei in disaccordo con una donna, non le puoi scrivere vacca, oca, gallina, maiala, balena, arpia, zoccola, gatta morta. Allora, iena, beh, capra, intanto torniamo ancora sulle parole d'odio. Ma questo video è interessante perché è un video che Netflix ha pubblicato per accompagnare il lancio di una serie che è Luna Nera, che è stata pubblicata ieri su Netflix. Il link è il fatto che questa serie è al femminile, diciamo, sì, così, anche se non mi piace tanto questa espressione, però le registe sono donne, le sceneggiatrici sono donne, eccetera. Non voglio entrare nel merito di questa cosa, voglio però sapere cosa ne pensi tu di questa commistione YouTube serie. Era già successo con Michela Giraud, che io adoro, stand up comedian divertentissima, che aveva fatto dei video per lanciare invece con Amazon Prime Video la Mrs. Maisel. Mrs. Maisel, sì. Allora, cosa ne pensi? Guarda, io la trovo una cosa concettualmente banale, tutto sommato. Nel momento in cui parliamo di piattaforme che offrono contenuti in modo nuovo da un punto di vista proprio distributivo, tecnologico, è anche normale che cerchino spazi di promozione, di visibilità, che non sono quelli tradizionali, proprio perché una TV lineare per promuovere una nuova cosa che manda in onda. Quando dici usare TV lineare, dici quelle che accendi, 5, 3, 1, 4, Rai 1, Rai 2, Rai 3, cioè che accendi, hanno un palinsesto che va avanti e tu ti sintonizzi quando vuoi. Esatto, vedi un flusso, cioè vedi un flusso di programmi uno dietro l'altro. Il flusso televisivo, si autopromuovono mettendo appunto dei promo in corrispondenza dei break pubblicitari, eccetera. Netflix questa cosa magari non ce l'ha, un palinsesto lineare, e quindi al massimo puoi andare su Netflix e trovare, che ne so, una pubblicità di un loro prossimo o un trailer di un loro prossimo, una prossima serie, e ci sono, e lo fanno, esatto. Però, come giusto che sia, in quanto sono un po' la nuova frontiera, diciamo, dal punto di vista tecnologico, cercano anche spazi di visibilità altrove. E lo fanno bene, lo fanno male, lo fanno boh, però secondo me è una cosa abbastanza naturale da questo punto di vista. Loro tra l'altro sono molto bravi, per esempio su Facebook, Netflix, sono molto bravi anche su Twitter, sì, a scrivere, ma proprio le frasette che scrivono, le cose, riescono sempre a farti sentire un po' parte di un vero, di una comunità, siamo tutti amici, facciamo questa cosa, vero. E quindi è giusto così alla fine. Ah no, invece oggi mi è piaciuta un'altra cosa, la vado a recuperare perché io ho subito commentato un tweet invece di Spotify, che qui siamo sempre sulle piattaforme, però parliamo di musica. Spotify Italia, che ha lanciato la canzone che ha vinto Sanremo nel tuo anno di nascita, descrive la tua situazione sentimentale. Come siamo messi? È bello perché crea engagement, ma io ho risposto: dovete segarmi a metà e contare gli anelli, piuttosto non ve lo dico la canzone dell'anno. Mi sembra molto giusto. Io ho un po' paura perché io sono nato in anni di Sanremo forse poco visto e poco apprezzato. Vabbè, allora facciamo una cosa, diamo la viabilità e sento se è riferibile. Secondo me è molto riferibile, e invece erano già anni in cui Sanremo andava forte, ma so che non è il tuo pane. Adesso, vabbè, durante la viabilità ne parliamo tra poco. Radio Tube Social Network. No, dai, era una bella canzone quella che ha vinto il tuo Sanremo. Sì, dai. Lo diciamo? Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Oh, vedi. Quindi la tua situazione sentimentale è definita da Storie di tutti i giorni. Storie di tutti i giorni. Vabbè, buono, dai, poteva andare peggio. È certo. Poteva andare peggio. Poteva essere. Ogni giorno c'è una possibilità nuova. Bravo. Mi piace, Diego. Allora, i video in tendenza di YouTube dell'ultima settimana. Io questa mattina ho fatto colazione con la mia tazza di 8 litri e mezzo di caffè lungo e guardandomi tutti i video in tendenza. Questa settimana ce ne sono un sacco di interessanti. Allora, né io né tu siamo fuori sede, noi siamo locali e viviamo i fuori sede. Invece il nostro Alessandro Schirano, che è tornato in redazione da questo sabato, è un fuori sede, quindi non so se c'era anche un po' la faccia, onestamente, cioè, alla faccia del fuori sede. Dopo vuole sapere perché. Cosa vuol dire alla faccia del fuori sede, e chissà se si trova d'accordo con questo video lanciato da Casa Surace con il quiz Quanto fuori sede sei. Ecco a voi il primo quiz che stabilisce quanto fuori sede sei. L'argomento del giorno è il pacco da giù. Perché una mamma prepara un pacco da giù? Per economia? Per comodità? Perché i fuorisede sono sempre sciupati? Perché i fuorisede sono sempre sciupati. Sempre sciupati. Seconda domanda. Quale prodotto in un pacco da giù riempie gli spazi? I panni? Il tonno? Niente? Qual è? Il tonno. È scientificamente provato che un fuorisede è fatto dell'80% di tonno. Perché in un pacco da giù una mamma mette anche prodotti che troveresti tranquillamente nella città in cui vivi? Hanno un altro sapore? Non sa che si vendono anche al nord? Costano meno? Hanno un altro sapore. Quando arriva dal sud si porta con sé il sapore dell'aria, il sapore della famiglia. Sembra uguale a quello che vendono sotto casa, ma quando l'andate ad aprire, boom! Ah! Cosa si dice al corriere per raccomandazione? A chi si figlio? Stai sciupato? Stato accorto? Stato accorto. Stai sciupato, capito? Ma a chi si figlio? Ho capito, ma no, ma tu hai dato tutte e tre le risposte. Quella solo una è quella giusta, capito? Per il pubblico, per me, sto importando tutte e tre. Se hai risposto in maniera esatta a tutte le domande, sei un fuorisede? Esperto, sei un fuorisede doc. Chi è meglio di te, si pitta. Se invece hai sbagliato tutte le risposte, sei un... ciutaglione. Non è cosa tua. Un ciutaglione, non è cosa... Come sei andato tu, Ale, nel test del fuorisede? Bene, tua madre non ti manda il pacco da giù, no? Per esperienza acquisita con altri pacchi da giù di altri amici, quindi facciamo un appello alla mamma di Alessandro, perché vorremmo essere fuori sede e non ricevere nemmeno il pacco da giù, soprattutto lavorare umana, con un fuori sede. Vabbè. Allora, un altro youtuber che a me sta molto simpatico, è stato anche nostro ospite a Genova, è Giacomo Hochman. Lui fa quasi non delle candid camera, no, perché lui riprende le persone, lo sanno, però le mette alla prova. Ad esempio prende i fidanzati, gli scambia i cellulari, sono successe delle cose. Roba. E invece questa volta è andato davanti all'università e ha chiesto alle studentesse che cosa hai nella borsa. Ecco qua. ci chiediamo cosa si portano le studentesse in facoltà. Cibo soprattutto. Oh, giusto due cose, sì. Si va qualche ora, sì, in università. Due chili di roba, anzi. Senti. Partiamo subito dal pezzo forte, prugne. Le prugne. Ah, dalle prugne. Perché le prugne? Quante prugne? Perché? Quanto vuoi? Sono cinque, cioè, prugne, le stai prugne, qua mezz'ora. Ricetta, per forza. Lui è di Genova, non sa cosa vuol dire. Ricetta è pranzo. Ah, il pranzo. Possiamo vedere il pranzo? Cioè, ah, roba light. No, finocchi e tonno. Finocchi e tonno. Tonno. Beh, buonissimo. Tonno. Frisk, perché c'è. Cioè, frisk? Dopo otto prugne e tonno con i finocchi. Sì. Cibo. Cibo. Cibo e acqua. Cibo e acqua. Cibo. Signore, guardi. Borracce. Borracce. Cioè, tu mezz'ora senza mangiare o bere non riesci. Muore. Fazzoletti. Ah, scontrini. Scontrini. Beh, questo è un grande classico, lo e del cibo, tra l'altro. Scontrini di cibo. Popcorn. Che non mancano mai, fazzoletti usati. Certo. Allora, anch'io dalla borsa, no, cibo no, fazzoletti. Però devo raccontarti una cosa che mi è successa oggi. Sentiamola subito. Tanto siamo qua io e te. Stavo guidando, tra l'altro ero anche al telefono, ovviamente col viva voce. E mi suonava la cintura di sicurezza. E dicevo, ma perché? Cioè, io ce l'ho la cintura di sicurezza. No, perché la borsa era talmente pesante. L'avevo messa sul sedile di fianco. Anche a me con la borsa dell'ufficio ogni tanto. Era talmente pesante, sì, che era convinta che ci, sì, fosse una persona. Sì. Comunque io sono, lo dico, io sono estremamente invidioso delle borse delle donne. Beh, cioè, nel senso, per il maschio, quando arriva l'estate e sei in jeans e maglietta, non hai nessuna idea di dove mettere la roba che vorresti portarti in ma giro. Ma dai, bisogna far tornare di moda il borsello. Poi è arrivato il borsello, ma le donne furbe hanno cominciato a dire: no, il borsello mi fa schifo, se ce l'hai non te la do neanche per sbaglio. E quindi, ma secondo me era tutta una roba vostra per mantenere questo privilegio della borsa, il monopolio della borsa. È vero, è vero. Guarda, a Diego Castelli non la si fa. Non la si fa. Allora, tu sei uno che ogni tanto guarda YouTube? Sì, dipende. Ci sono ogni tanto dei video che a me appaiono nei suggerimenti e io non riesco a non cliccarli. Okay. Cioè, quando lo vedo devo e sono i cosiddetti life hacks. Oh, bellissimo. Quella roba bellissimo. Lì no, li vedi, non puoi non andarci. Sono dei video che magari durano 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Di solito sono americani, stranieri, non sono parlati, hanno solo delle spiegazioni di alcuni piccoli trucchetti da usare nella vita per quotidiana. Per renderla sì. più comoda. E c'è uno youtuber molto simpatico che si chiama Jumpitech che ha provato a capire se questi life hacks funzionano davvero oppure no. Ecco, sentiamo. Mettendo un pezzo di scotch sul palloncino, in teoria non dovrebbe scoppiare istantaneamente se lo buchiamo con un ago. Per scoppiare scoppia, ma non istantaneamente. Adesso noi lo andremo a testare. Palloncini del primo compleanno. Prendere un pezzo di scotch, metterlo sul nostro fantastico ballone, mettiamo sul palloncino in questo modo, nella maniera più uniforme possibile. In teoria adesso non dovrebbe scoppiare. Ragazzi, che cazzo sto facendo? Preparati al botto. Aspetta. Oddio, l'ho bucato. Oh cazzo. Oddio, ora se scoppia parte sto ago e ce la zicchiamo da qualche parte. Oddio, levalo, ti prego. Aspetta che lo tolgo. Ragazzi, è unexpected, meglio di quello originale. Guarda qui che il palloncino è totalmente distrutto. Buco da un'altra parte. Non ho parole. Comunque, Alessandro Schirano nell'interforo mi dice anche lui è dell'oltrepo. Sì, e anche lui sarà un po' fuori sede come te, scusa. Però non è della stessa regione, secondo me. Secondo me Jumpitech non è tuo compaesano. No. Allora, ha fatto per noi quello che vorremmo fare, provare sì. noi. Spoiler. Gli altri non funzionano, quasi tutti. No, ma io una volta ho visto un video dove si diceva: grande idea riciclare i rotoli della carta igienica finiti come portapenne. Che onestamente, poi secondo me la scrivania fa un po' schifo. Cioè, concettualmente. Poi per carità, grande idea, però. Vabbè, non è che proprio tutti sono super utili. Cioè, prendi un bicchierino di plastica carino. No, di plastica no. Prendi una tazza di vetro, dai, plastica, no? Non si usa. Ma no, plastica nel senso bello, cioè fatto bene, ecco. Che poi ti dura tutta la vita. Anche perché poi vabbè, noi siamo per il riciclo, ma quanti portapenne vuoi fare? No, infatti, ma uno, e poi uno. Ti affezioni, che ne so, c'ha su i Minion, che ne so, ti affezioni esatto. E te lo tieni tutta la vita. Dai, invece di, vabbè. Allora, è il momento di ringraziare Peter Bescapè in regia e poi di ringraziare il nostro conduttore Diego Castelli. Evviva, torna ancora con noi non ci perdiamo i film su Cine 34. E siccome abbiamo lanciato questa cosa che aveva lanciato oggi Spotify Italy della situazione sentimentale che equivale al titolo della canzone che ha vinto Sanremo nel tuo anno di nascita. Vuoi rivelare? È il momento che rivedi? No, rivelo quella di Alessandro Schirano. Ah, okay. Rivelo quella di Alessandro Schirano, perché lui mi ha appena scritto che nel suo anno ha vinto Ti lascerò. No, aia. Dai, ma no, non è vero. Spotify, stavano scherzando, non è vero, non è vero, non pensarla. Ma, perché... ma è lui che lascia, perché è uno sciupa femmine. Ah, è vero, è vero, è vero. Allora, ragazzi, noi ci ritroviamo il sabato prossimo da Sanremo, come sempre, con il nostro RadioTube. A prestissimo!